bene, comunque così va bene, dai. Ehi, adesso ti faccio sentire i super sidechi, ci sono gli spagnoli, vediamo un po' se rispondono. Attento, mio hermano della Spagna, della Scusia, l'isola della Sardinia, adelante per un comprendito, per favore. Ricetto anch'io. Aspetta un attimo. Attento, mio hermano della Scusia, l'isola della Sardinia, adelante per un comprendito. Non troppo basso. Come lo so, tu devi dire attento mio hermano, si va scusciando il cuero espanados. Aspetta Tony che è troppo largo il microfono. Capa. Tonino. E su che mi da suscià. Dai voce forti. Controlla se c'è alternata. Mi ti ha portato il fisso un po' senza parlare, vediamo un po'. Ha sento l'acqua. Io non ne sento alternata, No? No, negativo. Chi è più forte? Questo o l'altro che stavo usando? E su che volume vai? Oh, forse me l'hanno fatto tu lì perché è troppo forte. E forse, vabbè, io ho un microfono, l'incensione che ho sul baracchino e su che volume. Chi è più forte? Questo o l'altro che c'avevo? Questo? Manco paragone. Cavagalo. Anche tu c'è un volume un bel alto lì, ma cosa c'è un amplificato? Ma è che normale il suo originale presidente, tipo quello dei Galaxy, né più e né meno. Addirittura Jack ha lo spinotto di quelli antichi, cazzo che trovo. Di quelli senza ghiera. No, che c'è la ghiera, ma è fatto in modo strano. Questi addirittura li vedevo ma tempo fa, così negli anni 60 forse. Via. Allora aspetta un attimino, voglio provare se avvicinando l'apparato fa lo stesso alternato. Il mio segnale comunque è sempre uguale, sì. Prova. 1, 2, 3, prova di modulazione. Buono, buono il segnale, sempre 9.30. Aspetta un attimino. Stai avvicinandolo, se voglio vedere, stai avvicinandolo, perché è più vicino per farlo. Aspetta. Così, guarda. Così fai alternata. Faccio avvicinarlo allora. Non lo devi avvicinare, è troppo amplificato, piglia tutto. Sto lì, è a fianco all'apparato, vado con te, in mano me lo tengo il microfono a capo. Lo regoli il volume, lo tieni in un modo che non prende l'alternata. Aspetta, lo regoliamo. Lo regoliamo. Mai chi, così. Adesso lo abbasso appena. Aspetta però mi pongo i bicicletti, non c'ho gli occhiali. Aspetta. Portami lì. Ti voglio vedere se abbassano il Mekigin e risolviamo il problema. Mi cappa. No, sento sotto fondo la melena. Saluta dalla parte mia. Ehi, grazie. Contraccambia. Ok. Comunque c'ho lo smicker avaro, Che ti do che più di 7 conope non arrivi. Boh. Ciao. Ciao Mirei. Ti porta chiaro? Chiaro. Mi siete bene? Sì. Cappa. Stavo dicendo Gianni che come smitter, come ricezione, è un po' avaro, più che 7,9, ma 9,5, non di più, non arrivi. Vabbè, non so, quegli apparecchi sono tutti così. O sono troppo generosi e troppo avaro, bisogna regolare lo smitter. Vabbè, tanto. Io che è più fedele quello delle cose, giusto, del sottronecco, capito? Comunque l'importante è quello. Allora Tony, adesso io provo a abbassare, questo è il Mekigin, lo mettiamo a metà, vediamo un po' se è alternata così, lo mettiamo qua a fianco, guarda com'è. Prova adesso un po' di portante. Si sente, basso ma si sente. Attention my friend, Italy from Sardinia chiama. Arrivano forti, Aspetta che sta rispondendo. Germania. Attention my friend, Germany, two copies station Sierra Tango number one, Island of Sardinia, from Italy. Achtung Germany, Italy from Sardinia. Achtung Germany, cartoffel telefunke Volkswagen. Doberman, telefunke, Filco. Charlie, se ascolti Delta Romeo, città di Sassari, nord Sardegna. Ma chi c'è parente la Merkel? Attenzione Mike Charlie, tu copi Island Sardinia, gestisci Sierra Tango. Ok, ok my friend. Arrivo molto bene alla stazione con Santiago di Super 8, Super 5 Radio, ok? Prima, alles gleiches. Attention my friend, l'operatore Delta Romeo della città di Sassari, Sardegna, recover. Du wirst hier in Sardegna, sehr gutes Radio und gute Serra 79. Papa America Germany. L'operatore Gianni Delta Romeo della città di Sassari. Sono avanti. Ecco, ma che ci bu. Poi dico, vai sempre tedesco, tipo Angela Merkel, pacca e daga, sei fuco e Volkswagen, cartoffen. Io voglio essere un Manolo. Guarda adesso se c'è alternato. No, si sente la ventolina. E vabbè. Perché c'è la ventola all'alimentatore accesa. Gappa, niente alternata già. Cava gappa. Comunque ci sento, no? È forte pure. Cava gappa. Vediamo un po' se c'è altra gente, tu li faccio una spazzolata per se ci sono italiani. Gappa, già sono qua in ascolto. No, c'è 29, ci sono tedeschi lo stesso. Tutto Germania, facca le daga. Tanto una modulazione che c'è, certo, sempre con l'amplificato. No, è vero, buona è già. Buona, cazzo, sto dicendo, arriva benissimo, tra le volte riuscivo un bel forte. Se sei buona amplificata, di chi mi pacchi tutto? Io te lo compri in Italia, 200 euro. Ah, ah, ah, ma devo ridere. Cazzo, l'ho visionato. Ti interessa un magno? 280 euro. Sì, dipende che magno me. Un magno che si magna, un magno magno, e l'ho tutto quanto brizzolato. Vabbè, guardami, aspetta che spengo. Eia. Cava, cava. Quindi il problema è questo, che quando tu lo metti vicino all'apparato, gracchia, fa l'alternata. È un rientro, E lo so, non va molto vicino al microfono del baracchino, sicuramente in alternata prende tutto. Ma cosa, che l'altro lo metto attaccato non gli fa nulla, questo qua è che era il problema. L'altro, come si chiama, il Corsair Plus, lo metto attaccato come lo metto questo, che non gli fa problema. Invece con questo qui gli dà questo problema. Perché questo è molto più sensibile, Gianni. Amplifica un bel, è per quello che ti raccoglie tutto. Cioè, quando mi esci dalla cosa della batteria. Lo so, questo qui amplifica un bel, bello per quello. Bisogna tenerlo però sul ginocchio, perché sennò ti rompe le balle. Provo a fare un'altra cosa, spostarlo tutto qua da una parte, la parecchio, vediamo un po', buh, ah, non lo faccio a me. Adesso so che così, basta tenerlo sulla gamba e buh. Ecco. Così amplifica bene e non dà nessuna alternanza, così è. Sì, perfetto, così è perfetto. Niente alternata. Che palle. Poi c'è l'altro, c'è il Cobra che si è attacchi, si è rimasto incluso al Cobra allucinato. Ma quello come radio c'è lo stesso forte. Sì. Quello ce n'è uno, 80 euro, tu lì ce lo vuoi vedere. C'è sul quel sito baracchino amico, roba del genere. 80 euro, nuovo di zecca, c'è anche la spugnetta, però è gialla, a me non piace gialla, io l'ho messa nera e ci sta un bel bene. Ma è quale? Quello che ho io è uguale. L'Eco Master Plus. Ah, l'Eco Master Plus, non lo conosco. Quello che ho io, tu di quello col tasto rosso. Quello col tasto rosso? Quello che avevo prima nel Galaxy, non te lo ricordo. Non me la metto più. Tu sei sempre ciambendica, boh. Vabbè, adesso attacco quello... il coso, attacco l'altro. E lui che è un po' di tempo che non lo sta scendendo. Ma adesso io devo tutto sistemare, che è un casino qua, per carità. E allora vai a sistemare, dai, io vado a vedermi il furo. Beh, vabbè dai, che qua devo smontare tutto e poi ripiazzare piano piano, un casino, Vabbè dai, già ci sentiamo. Ehi, Antoni, dai, adesso guarda se c'è alternata. Sì, adesso c'è l'alternata. Cazzo, dovrei trovare qualche cosa per evitarlo. metti un cartone di uova, così non disturba, sarebbe stata isolato. Non mi piace il serrano. Polisirolo, ma c'è anche nero. Andiamo, dai, vediamo un po'. Ok, ci sentiamo più tardi, dai, ciao ciao. Ok, dai, ci sentiamo, ciao ciao. Forte e chiara la radio, bella, bella, bella. Insomma, ho fatto un affare per 130, dai. Sì, sì, va benissimo. Tutti i canali provato, anche FM c'ha. Sì, però dire una cosa, almeno questo non è scacciavitato. Per quello che esce bene. Cala, cala, sentiamo tutti. Ok, ok, d'accordo, ciao, ciao, ciao. Ciao. Io ho mangiato un po' di ravioli oggi, dopo veloce sono tornato la campagna che era più dell'ora e mezza, per carità, ora non è poco bello che ci frappica morire, un casino che non ti dico, non ti ridico, Abaita, non ti ridico. I mulatti quando entrano un casino sì, e lui lascia perdere, ma se facciano tutto nuovo, pavimenti pure. E quello è tutto finito, pavimenti, quella roba lì, ma cazzo, lasciami lì. Tu immaginati che i cosi che mantengono gli sportelloni delle finestre, i turigardi da poco, ne sono già caggiuti due bestie di tonaco. Che cazzo, ma sei morto, ci manto di su, ti ha accumulato. Beh, non penso proprio. La gesetta che oggi non avrà nessuno quando gioca andato. La gesetta Runi, la rubiera cazzosa. Beh, se sei mugnendi, così, se mi fai così, fatti, beh. Che carità. Io ultimamente sto perdendo qualche soldino, purtroppo qualche soldino sto perdendo e non va bene, non mi sta bene questa cosa, sono già a quota 60, più di 60 euro di sotto. In entrata? No, dico, l'altro giorno ho sistemato un iPhone, no, ha dato problemi e di solito l'ho dovuto ritirare io e ho dovuto restituire i soldi e ci ho perso. Allora 60, poi un amico lo stesso gli si è rotto il telefono, prima non ha preso acqua, comunque dentro ha dei sensori, come prende acqua questi sensori cambiano colore, vabbè, dice lui non gliel'ha preso acqua, non caricava il nostro telefono, gli ho ordinato il connettore a spese mie e non era quello, allora gliel'ho staccato e me lo sono tenuto io. E praticamente anche lì ci ho perso 15 euro, fatelo conto. E poi ci sto parlando un bel soldi qua ultimamente, non siamo forse più nulla, tanto ma pigli. Va bello, non posso andare bene, però quando è così ti si girano i pibisti. Gappa, che io non sto controllando niente, lui. Non sto controllando niente. Il geometra dell'impresa è sempre in giro, da altre parti, non controllando manco Edo. Capito? E che non vedi cagardi e questo a me non mi sta bene, infatti lunedì io dico chiaro e tondo, o fate le cose fatte bene, ma fate bene veramente, se no io sto qua, sto 8 ore qua, perché così non mi va bene, e lunedì avviso il geometra, i ricudi a un'ecuzionata, anche se no io non do comunque di cobra anche più. Giusto, ma sono un po' qua. Perché è troppo alto? Forse stavo gridando troppo. Così bene va. No, è rimbomba, capito? Sei un bel forte, cazzo, sei un bel forte alla radio. Micidiale. Sì, vabbè, stavo gridando troppo. Kappa. No, mi fa veramente girare balle, capito? Mi fa un bel girare balle. Cazzo, Valeniamo è andato, è vero, rubiamo cottura, lasciata a Medai, sotto non è collegato nulla, il bagno è finito, la cassettiera dello sciacquone è tutta da collegare, cioè boh, io voglio comprendere cosa cazzo sono convenente chi. Vabbè, ma sono pagati a giornata oppure a corti mozzo? No, tanto impresa, abbiamo pattuito un tanto e dovevamo fare, ma c'erano un po' di cantieri aperti, capito? Però a me non me la fotti nuda, a me mi devono consegnare a casa entro il 30 aprile, se no sono cazzi giù. Io vedo che si lascia, ciao, mi assento che vado a prendermi il telefono e mi faccio merenda o qualcosa, stavolta mi faccio la pizza. Capo di Rosmetto, già sono qua allora, non ti preoccupare. C'è qualcuno? Naturalmente no. Manco lì. Vabbè, sto scaldando qua la pappatoia. È tutto qui, dai. Ieri credo di non aver sentito nessuno, oggi nemmeno, ma qua è acceso con un volume talmente minimo che potrei non accorgermene. E tu, sto bene? Sì, diciamo gli IMAX, sì, la settimana è finita, domani devo fare l'ultima cosa e abbiamo finito la settimana. Dai, il tempo è clemente, purtroppo dobbiamo rimanercene in casa, non ci possiamo avventurare più di tanto. Comunque è già qualcosa che il tempo è migliorato. Vediamo un attimino se c'è qualcun altro sul 10, se no riprendi tu Marco. Che la pace sia con voi. E con il tuo spirito. Ciao Gianfranco. Amen. Buonasera figlioli. Allora, state a casa, fate da bravo. Andiamo, andiamo. Che a te. Andiamo, andiamo, però, che a te. Io ce l'ho prima, buonasera a tutti, con Claudio, se Claudio c'è, sono qua, avanti. Ciao Luca Riero. Ciao Luca, ciao Gianfranco. Oh vabbè, vedete che a Pasqua, no? Quando si poteva andare, arriva a Pasqua, arriva il temporale, il tempo brutto. Adesso che bisogna stare a casa, ci sarà un sole magari da spaccare il culo ai passeri, vedrai. Ma era matematico, io l'ho detto dall'inizio, troppo bella era la zona bianca, non esiste la zona gialla, che l'hanno eliminato per fare tutto un urban fascio, per evitare le gelosie che poi qualcuno venisse qua in Sardegna per inquinare. Secondo loro hanno fatto zona arancione, adesso a Pasqua tutta Italia zona rossa. Questa è l'ultima cosa che hanno detto oggi l'altra giornata, anzi la radio, non l'altra giornata. Comunque i gradi salgono intorno ai 22. Cacchio, ma lo sai che fino a ieri avevo visto mi pare 12-13 gradi, sempre all'ombra, no? Oggi vado a guardare il termometro, 17 gradi, infatti era un caldo, sono andato in farmacia a pigliare medicine poco fa, c'era un caldo, porca miseria. Va bene, vai Gianfra, io vado a girare la roba sul fuoco, e quindi a breve chiudo, vai Gianfra? Sì, anch'io. Buonasera a tutti comunque, io invece mi allontano perché praticamente me ne vado a mangiare la maniglia, vado un po' più tardi, riprendi i robot. Ehi, buon appetito a tutti e due, Luca, mangi a te. Ehi, io vabbè, mi sono preparato tutto per la pizza stasera, me la faccio io, e così so quello che mangio, esce buona, chi se ne frega. Il bello è che mi sa che fanno zona rossa, giusto? Ma qui in campagna si può andare, quindi adesso da... vabbè, da Sassi dobbiamo scendere a carica, ma se no si può andare, è vero, confermi. No, nel comune puoi andare anche nell'arco di 30 km, purché il comune non abbia più di 5.000 abitanti. La cosa ridicola, puoi andare teoricamente all'Argentiera, tu, perché sei nel comune di Sassari, o andare a Platamona. Se dalla rotonda ti sposti a sinistra, sei già in comune di Porto Torres, che c'ha più di 5.000 abitanti, e non ci puoi andare. La cosa ridicola è quella. Ma vabbè, lo scendo in campagna. Come si dice? Ed è a Canica, perciò mi posso spostare. Naturalmente state attenti se c'è qualche imbecille che faccia qualche soffiata, magari se siete in truppi, ma a me non me ne ha fatto nulla, io se devo fare faccio, domani devo andare a Torralba per dire, devo fare roba, devo ritirarmi il camper e andare a testa, non me ne ha fatto, vabbè, Torralba siamo entro i 30 km, è un paesino piccolino, però se mi fermano io sto andando a ritirarmi la macchina, che cacchio. Ehi, avanti, che è? Sempre io sogno. Ciao Robert, buonasera. No, ma secondo me in zona rossa non ci si può, non possiamo spostarci, Robert. In zona arancione puoi andare, ma in zona rossa a Pasqua e Pasquetta non ti puoi spostare, lì puoi andare. No, no, non ho letto bene il coso, non posso dire cose che non so, ho letto vagamente, zona arancione sì, zona rossa non lo so se ti puoi muovere, ma nel comune, nell'arco del comune puoi rimanere, io credo di sì. Ma se li puoi rimanere, puoi uscire di casa con l'autocertificazione, o per lavoro o per motivi validi, noi te ne puoi andare in campagna a fare i puntini, no? Zona rossa no, zona arancione sì, ma Pasqua e Pasquetta non possiamo andare da nessuna parte, li puoi andare, se è rosso è rosso. Tu col semaforo rosso passi, non puoi passare, con quello arancione puoi passare, rischi, ma dovresti fermarti lo stesso, se è rosso è rosso, non si può andare da nessuna parte, non si può andare da nessuna parte, anche perché poi dalle 10 di sera fino alle 5 del mattino c'è il lockdown totale, e in ogni caso non ci possiamo spostare. Puoi uscire da casa solo per motivi validi, rosso, arancione, ti puoi spostare come hai detto tu. Ho oh, vabbè, che c'è da dire, che tu puoi visitare un parente per fargli gli auguri, come è successo per Natale, nello stesso giorno, però non puoi andare a due o tre persone di te. Per dire, sto andando a visitare un amico mio che è a Canica, o un parente, o dove cavolo è. Sono andato a visitare e poi la sera devo rientrare entro le 6. Attenzione, che siccome nessuno è stupido, quando tu le dai l'autocertificazione, loro tramite il computer, tramite tutte le tecnologie che ci sono, ok, perché questo mi hanno informato persone che sono nel settore, soprattutto qua nel mio palazzo, c'è un finanziere e un poliziotto, ok, e appunto loro tramite la tecnologia che hanno, quando tu le dici, perché devi scrivere nome, cognome e indirizzo dove stai andando, loro automaticamente dall'autocertificazione controllano se esiste nome, cognome, indirizzo, se tu stai andando lì. Ok, perché se non stai andando lì, sono cacchi tuoi. Sì, quello è normale, devi rispettare, devi dire dove stai andando, a che ora sei uscito, dove, a che ora vedurrò. Perché è un'autocertificazione, è la legge stessa, se tu autocertifichi il falso, sei passibile d'arresto. Capito? Quindi c'è, cioè, un casino. Poi, a quanto mi sta facendo mia figlia, pare che nuovo DPCM che devono fare, ci sia la proroga sino al 1° maggio, tutti i bar e ristoranti chiusi, sempre lockdown e sempre in zona arancione. Guarda, claro, io ne sono stufo di questi imbecilli, basta. Poi alla fine, lo sai, succede come l'anno scorso, a maggio finisce tutto, sono serviti le restrizioni, e non capiscono che i virus si attenuano matematicamente col caldo, è normale. Poi a settembre d'ora, ci sono di nuovo i contagi, bisogna rifare nuovo le restrizioni, è tutta una montatura, non hai compreso? Io sono d'accordo con te che è tutta una montatura, su questo non ci piove, ci mancherebbe altro, però intanto ci stanno costringendo a perdere quattrini e ci stanno facendo venire l'esaurimento, capito? Tutto qua, ma io non me la fotti nuda, io però sono pronto, trasloco, vado e torno con i furgoni, non me la fotti manco, ballanti camera, mi faccio l'autocertificazione, io devo traslocare, a me non me la fotti nuda, né dalla zona rossa, né dalla zona gialla, né dalla zona bianca, manco ballanti camera me la fotti. Lo diciamo, a me mi dispiace per quelli che mettono le contravvenzioni, hai visto quei parrucchieri, deve essere arrivata la soffiata, non riconosco neanche qua in via Carlo Felice, non so quanto danno il borso di multa, chiuso per 15 giorni. E i parrucchieri sono aperti perché ne hanno messo la multa, là c'era troppa gente dentro. Allora c'era quello Fashion Online, non so, questa specie di network che vanno in giro, viene un parrucchiere famoso, va nel suo coso di parrucchiere e ti fa vedere nuove Italia. C'erano 6 persone dentro e non so quante potevano tenere, 5 più 3 dipendenti, e quello che c'aveva la mascherina forse non ce l'aveva messa bene, non so che cosa, ne gribata a tutti, più quelli che c'erano dentro, e chiuso 15 giorni. Per colpa di questo orecchione che sta facendo il giro della Sardegna, se si fosse stato a casa sua non sarebbe successo niente, per carità, testa di sesso che vai Ru. È un casino, è un casotto, ma chissà quando ritorniamo alla normalità, ce ne passerà il tempo. Dicono che quando ci vaccinano tutti, primo vabbè, poi il richiamo, primo vaccino il richiamo, vabbè. E poi dicono che la mascherina comunque c'è, la devi tenere sempre. Io me la pongo bruga, non mi do. Ma tu sei sicuro, perché se ti hai fatto il vaccino puoi andare libero, puoi fare quello che vuoi, tu vai a Manzano, pensa alla Guzzi Luca, sei contagioso uguale, devi stare con le stesse normative di mascherine e cose del genere, per cui non c'è manuta, cosa cacchio vaccino, lasciamo perdere, vaccino di che cosa? Di cosa vaccino? Che tutti stanno manipolando il coso, il DNA, non ti stanno iniettando la malattia, perché quando tu fai l'antipolio, l'antirosolia, eccetera, eccetera, ti iniettano la malattia e ti fai gli anticorpi. Quanti stanno manipolando il DNA per eventualmente, se tu ti prendi un virus, non quello, perché il virus ce ne sono milioni, non è detto che quello guarisca, l'organismo riesca a reagire, è tutta una montatura, abilità da barbuto. Ma io l'ho detto a febbraio dell'anno scorso, il vaccino se l'ha fatto l'altro giorno, 15 giorni fa, la sola di Marco, come clà, per dirlo a te, medico, neurologo, non stiamo parlando di una scema, lei è stata proprio una delle primissime, la prima dose, dice, un paio di giorni, dolore al braccio. braccio, la seconda dose la giuma non crepa, dice dolori a trucci, coso di mal di testa, febbre a 40, mal di stomaco, dolori muscolari, c'è una cosa assurda. E siccome la giovane ha sofferto di trombi, era preoccupata che morisse, dice una cosa assurda, lei è un medico, non stiamo parlando di uno scemo. Il fratello se lo doveva fare, ha detto manco molto, perché lui era uno di quelli, ma la faccio subito, ha detto stai attento ai vaccini. Non so cosa dirti, vabbè, non lo so, io vabbè, non appartengo ancora a quelli da vaccinare, sono gli ultra 80 anni, 70 anni, poi sono i 60 anni, però ti ripeto, è un casino, basta, non lo so. Non so come cacchio va a finire, lo già voi ti dica. È un momento brutto, momento molto brutto, allucinante, veramente, cioè bar, ristoranti, pizzerie, tutto già rado, solo l'asporto, ma asporto di cosa? Ma asporto di cosa? Ma stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando? Mica, adesso ti dico una cosa, scusa Luca il monopolio, stamattina è passato, ho trovato, ma mica, andiamo a prenderci un caffè, no, io caffè non ne prendo, ti prendo una, e siamo andati su a coso, sopra OVS, hai visto, coso Luna e Sole, siamo andati di lì, cosa prendi, ho detto, lì un caffè, io un coso, un, che si chiama, un bitter, sarà un bitter, no, qua non potete stare, dovete stare fuori, ho detto, vabbè, non c'è problema, eravamo fuori, ma lontani, dall'alcol, no, preferibile, mettetevi ancora più lontano, e me ne viene con questa tazzina di plastica e di bicchiere in plastica col bitter dentro, due dita di bitter. Questa cosa è questa cosa? No, dobbiamo darlo così. Infatti ci ho rinunciato, non me ne frega niente. Mi sto trovando un po' più tardi perché poi lo sai, no? Vi passo da te, due chiacchiere, ma io il caffè me l'ho già fatto a casa dopo. Mentre prima invece uscivo, andavo a prendermi il caffè, fare colazione, passavo da te, eccetera. Io me lo sto facendo a casa e basta, non devo fare lo zingaro con la tazzina, la brioche in mano, per strada, ma dico siamo provvidenti, assolutamente. È una cosa che a me non piace, quindi va bene così. C'è un bigliaio in luce, di caffè, galagina rati, buco. Ma quello che fa ridere è questo cacchio di regole, cioè io dico una cosa, cos'è? Mezzo metro prima c'è il virus, mezzo metro dopo non ce n'è di virus, cioè io queste cose che sono inconcepibili, chi fa le regole, sono regole senza senso, sino alle 6 non c'è il virus, alle 6 un minuto c'è il virus, c'è un amico mio che non facciamo nome, c'ha un grosso ristorante qua a Sassari, ci sono gli operai che fanno la fibra e vanno a mangiare alle 5, perché finiscono alle 5 e fanno pranzo e cena tutte insieme, alle 6 c'è i vigili urbani sotto all'ingresso, pronti a punire la gondola, infatti devono mangiare veloci perché dice adesso se ne devono andare, ma ti rendi conto? No, non esiste una cosa del genere, è una cosa che praticamente sta solo facendo ridere, giustamente come hai detto tu, se il virus c'è dalle 6 del mattino alle 6 dell'indomani non può sparire così, capito? O si è ridotto e si rabbigliano tutti quanti in culo, o se no fai andare le cose come devono andare. Purtroppo comandano loro, vabbè, e quindi noi dobbiamo stare al loro gioco, altro non ti posso dire. Avanti Luca. Ciao Claudio. Infatti così, dai, è un casino. Siamo della merda. Lo so, forse anche di più. Ciao Marco, buonasera, ben ascoltato. Ciao, stavo seguendo il discorso e mangiando. Ti volevo chiedere, ma per esempio al bar vostro le regole come sono per l'asporto? Perché io qua ho visto più di un bar che metteva all'ingresso un panchettino, no, per darti il caffè e cose d'asporto, però poi c'è praticamente in sosta perenne una nuvoletta di gente assembrata davanti all'ingresso del bar. E questo praticamente non è una gran cagata, cioè lì bisogna prendere e andarsene. E qua invece vedi la nuvoletta di gente che orbita attorno all'ingresso, tutti molto ravvicinati, e quindi come vedi la gente continua a fottersene, capito? Finché non passa il controllo non gli dice niente. Infatti è lì la fottitura, no, è chiuso, non ce n'è asporto, già devi stare lì in Chivi dalla mattina alle 8, alle 7, sino alla sera alle 6 per fare che cosa? Per fare 100 euro. Ma non ti innambia, che sono zingarate, per favore, no, la mia figlia non hanno, è chiuso, non gliene fate niente. Avanti, Robert. E vabbè, ci hanno magonetto, se no ci sarebbe da fare un tema di queste cose qua. Ho che è passato poco fa Capri da me con la moglie, era una sassa, gli ho dato quella specie di chiamiamola libreria porta computer, quella che poi a te non ti è andata bene, che l'ho data a loro, così si mettono una volta per tutte queste radio. No, l'ho visto anch'io l'altro giorno che era dove parcheggia il pullman, lì sono andato a trovarli anch'io, mi ha fatto una chiacchierata. Ho promesso che andavo a prendere il caffè in questi giorni, ma sono troppo incasinato, A proposito, hanno chiamato, tu dico domani mattina, comunque hanno già deliberato per la prossima settimana, Gianni Gianmarco, bisogna ringraziarlo, insomma, per quello che ha fatto, Ehi, ha già un amico, già lo sai, gli amici quando servono, è passato ieri sera, abbiamo parlato proprio di questo fatto qua, però non ti preoccupare, che già si muove la cosa. Sì, sono già mossi. Vengono per iniziare la prossima settimana, infatti volevo sapere l'orario, tu qualsiasi osario, non c'è un problema, mi va bene anche l'ora di pranzo dalle 13 alle 15, capito, e quindi hanno già deliberato, e se no non posso andare avanti, Roberto, come faccio, sono incasinato, te l'ho spiegato, anzi grazie dell'aiuto che mi hai dato, infatti poi quando vedo Marco lo ringrazio. KK, avanti Marco, riprendi tu, se vuoi riprendere, se riprende Vedivella, non so se mi ascolti bene Marco. Ottimamente, il segnale è oltre 9.25, questo tanto dopo 9.30 non va, il segnale è forte, ma per caso sei attaccato, perché la radio si è pulita, ma una cosa infinitesimale mi sembra di come compressione. No, c'è la potenza del Galaxy, 20 watt, 25 watt, il microfono si rallenta. No, allora è la vicinanza, per il resto buono l'uno, buono anche l'altro, l'avevo già sentito io. Comunque si state sentendo in giro, cioè, si stanno pronunciando vari tribunali, che è tutto illegittimo, cioè questo di questi arresti domiciliari forzati è tutto illegittimo, e anche l'autocertificazione, capito? Diciamo, c'è gente lo diceva da un anno, siamo noi che ci vogliamo chiudere in casa anche per necessità, per cercare di ridurre questa storia del virus, ammesso che poi. Comunque, dove volevo arrivare, è tutto molto campato in aria, amico Claudio, tutto molto aleatorio, tutto molto interpretabile, Lo so, ascolta, ho abbassato un pochino la potenza, va meglio così, è meno saturina? No, vabbè, ti ho attenuato, è l'effetto vicinanza, Claudio, se ti attenuo migliora, quindi non ti fare problema alcuno. Va bene, che dire, io adesso porto la mangiare a mamma e quindi stacco. Ok, riprendi Luca, riprendi. Vai Gianni. Dai, buonasera a tutti, ciao Marco, ciao Claudio, Luca, non so se ci sia altra gente, sto accendendo adesso, dai. Avanti Luca, avanti Marco. Già, sono in cucina, sto andando avanti e indietro, ciao, ben sentito. E devo portare il coso a mamma. Qua c'è Claudio, c'era forse Roberto, non so se abbia staccato. Comunque riprendi tu, dai. Senza per salutarti. Claudio, riprendi. Ehi, ciao, buonasera, mi hai ascoltato, dai, cordialità. Non so se c'è Roberto, vabbè. Io non mi sono mai mosso, sono sempre qua, no? Ciao Gianni, anche io sono attenuato, siamo troppo vicini, troppo forte. Gianni mi pare troppo amplificato, ti sento un po' distorto, o abbassi un pochettino Gianni. Bene, va così, ciao Roberto. Sì, già va bene. Cavagala, questo è Rush. Sì, già va bene, diciamo, ti sento meglio in altre situazioni, ma anche questa è abbastanza chiara come radio. Cosa c'è su Rush già? Che microfono ti esanta? La static. Va bene, spinge bene. Spinge molto bene. È quello che c'ha il filo lungo. Così mi posso sgurrare tranquillo. Non mi rompo le scatole. Bello, se bello con il cacchio ci arriva il filo, sarà 2 metri di filo, 1,5 metri, dai. Sì, già va bene, dai. Già va bene, ottimo per la truppa. No, spinge bene. È quello che ti dà fastidio, il pulsante, quello lì. Mi dà, sì, c'è il pulsante quadrato qua, dietro dentro il dito. Ti lascia il cazzino quando finisci di modulare, poi è un bel forte da spingere, capito? Che miseria che... Avevo fatto un modello della Statici, ti ricordi quello che c'aveva Roberto Meccanico piatto? Aveva la pulsante era leggera. No, non me lo ricordo, mi ricordo che Roberto Meccanico aveva il Saverta, quello del rasoio, tipo rasoio, con l'MS200, quello mi ricordo. Eia, sì, no, quello ce l'aveva mancato, però a casa aveva una statica da palmo, quello triangolare, diciamo, con la rettina, no? Insomma, era una rottura di balle a tenerlo, allora gli aveva fatto fare da, non mi ricordo se era da un suo amico, gli aveva fatto l'aveva modificato da un altro microfono, gli aveva messo la rettina nera, bella, e manco ci vedeva la modifica, era morbido. Lo so, questo qui è un po' duro da premere, però l'ho fatto rivivere questo microfono, era da cambiare il cavo perché si stava tutto deteriorando, se l'aveva mangiato proprio. E poi diciamo che una volta cambiato il cavo, gli ho dato una pulita, fatto, adesso già va bene. Ma è un bel microfono, però questo sistema che hanno fatto del tasto rapportante è una cosa un po' fastidiosa, a volte non ce la fai a tenerlo premuto perché è un bel duro e molla un po', capito? Quindi non esci di radio. Già ho visto qualche volta te l'ho fatto. E quindi Robè, domani vai a ritirarti il camper? Ehi, avevamo fatto una modifica al cambio, abbiamo messo un cambio nuovo, a Torralba devo andare domani, già vicino, sono 30 km da. Gappa, ma ce l'hai chi ti accompagna? Sì, l'ho chiesto a un'amica mia, quella che mi ha portato l'altra volta, che è venuta, mi riporta. Vabbè, se c'è bisogno non c'è problema. Vabbè, già lo sono, ti preoccupare, grazie comunque. Ok, chi è rimasto qua? Luca c'è ancora? Ma l'hai cambiato il camper? No, quello vecchio è sempre quello, ne ho un altro che ne sto all'estendo, è quasi finito, però è una modifica, un lavoro di cosa, di quelli furgonati. Ho capito. E beh, cosa ne fai di lui? Chi usi uno o l'altro? Li uso tutti e due, perché uno è grande se vai con un po' di gente, e l'altro è a due pulsi. Quando vai in due e non vuoi rompimenti di scatto, vai da tutte le parti, perché quello è un mezzo speciale, uso speciale, dai. Non sei uscito? Ho detto, c'è l'imbarazzo della scelta. Ma non è riuscito di radio, quando forse non è scacciato bene, sì, no, l'ho fatto apposta, l'ho preso, tanto non pensare che tenere un camper c'erano spese esagerate, il bollo sono 25 euro, l'assicurazione di media 200-250 euro all'anno, per cui se non lo usi non consumi. Sì, lo so che è così, me lo stava dicendo un tipo a Platanora che viene sempre d'estate col camper e fanno un po' di piazza lì alla rotonda, si siedono tutti fuori eccetera. E stavamo parlando un giorno che col cane sono avvicinati e stavamo parlando e mi ha detto che la spesa del camper è proprio minima, me l'ha detto che si fa così di bollo. Sì, è quello, c'è il vantaggio, c'è sempre una casa viaggiante per qualunque cosa, infatti tutto che lo vendi, a meno che non ti vuoi prendere qualcosa di più moderno, ma già va bene il mio, non è nuovo però esteticamente è perfetto, non ho nessun problema di niente e fa lo stesso uso di un camper di quelli di ultima generazione, per cui non me ne ha fatti nulla. Ok, avanti a te Claudio. Stamattina stavi facendo il quadro, quello che manca, quel pezzettino del quadro elettrico. No, ho messo il salvavita perché di lì era tutto un macello, per cercare di farcelo stare ho dovuto modificare, ho fatto il foro, poi gli ho messo la barra di impatto, l'ho fissato dietro e di quei coperchietti che per usano per gli interruttori stagni, che si apre e così rimane anche protetto. Vabbè, già l'ho visto, da quando l'hai preso adesso già ne hai fatto i lavori. In pratica è quasi finito là. Quello è bello, due posti, vai dove vuoi, neanche meno ingombrante di quello là, già va bene. Luca, ci sei? Luca è già in pastende la pizza, avanti già, riprendi. Ma Robè è nato come camper o come furgone e poi tu te l'hai modificato? Allora, c'è tutto un discorso da fare. Questo nuovo, il quello grande è camper. Questo qua è officina mobile, laboratorio mobile, uso speciale. È un auto piccolo questo qua. Sono quelli della Telecom, non so se l'hai mai visti, che usano quelle officine mobili. Da lì è nato tutto quanto, le ho fatto piccole modifiche e l'ho adeguato ai miei utilizzi. Ah, ecco. Ma non è che devi, qui devi andare alla motorizzazione per... diciamo per cambiare la tipologia del mezzo? No, io non sto cambiando la tipologia, non ho un furgone. Una cosa, se tu c'hai un furgone per trasporto cose e ti fai le modifiche dentro, devi omologarlo. Idem se c'è un trasporto persone, se tu gli sedili devi modificarlo, oppure a meno che non metti i sedili omologati che si trasformano nel letto, però non devi togliere, modificare il numero dei passeggeri. No, questo è nato così, uso mobile, cioè laboratorio mobile, uso speciale, comparti mobili e fisse. Questo è quello che c'è scritto nel libretto, per cui non hai grossi problemi. Ah, capaga. Qui te l'hai tutto trasformato tu, dai, e l'hai fatto tutto a tuo piacimento, almeno lo fai come piace a te. È già lui, già Claudio già l'ha visto, già. È un bel lavoro, dai, sono abbastanza soddisfatto, le piccole rifiniture adesso mancano, però il grosso è fatto. Ok, lasciamo un attimino il bianco se c'è qualcuno che vuole entrare, se no riprendi tu Claudio. Ehi, piccole rifiniture, ho rifatto bene già. Fatto bene, c'è il magnetto, armadio, letto, c'è tutto. Molto bello, tutto rifatto, fatto bene, dai. Però c'è un motore 2008 della Argenta, quello del Ducato. È un Ducato 2008, l'ho preso aspirato, non turbo, in modo da avere anche affidabilità, perché turbo c'hanno sempre qualche, ci sono centraline, marasurfi, sensori, meglio, meno roba c'è, meno se ne rompe. In questo caso ho preso, vabbè, mi è capitato così, e se fosse stato turbo l'avrei preso lo stesso, però tra i due ho preferito prendere l'aspirato, tanto cammina un bel, c'ha motore, non me ne ho più tenuto a fare le gare. Sì, quello lì è il motore della vecchia Argenta, quello che c'avevo io, il Ducato. Motore dell'Argenta, 2008, ecco si cammina, il Ducato è una bella macchina, c'è anche una bella sterzata, secondo che Ducato è. No, no, va bene, molto silenzioso, nell'altro campo c'è un motore Ford 2005 iniezione diretta, un po' rumoroso, dai, questo è molto ma molto più silenzioso, ma già ti abitui, naturalmente devi rendere conto che stai guidando un furgone o un camper, non stai guidando una macchina, per cui tutte le cose, i tempi di reazione, le frenate, eccetera, eccetera, tutto diverso, devi abituarti, tu lo saprai anche meglio di me, perché ne hai guidato tante di cose, per cui devi fare quegli occhi un po' più aperti rispetto a un veicolo. Soprattutto l'altezza, Roberto, l'altezza che conta molto. Secondo dove passi, tu chi fai, devi stare molto attento agli alberi, ai terrazzi, tutte queste cose qua. Io col furgone stavo molto ma molto attento, una volta sono andato in fine, ho preso il mio collega e ne ha buttato un terrazzo. Quello là, quell'autoradio, quella che mi avevi dato tu, ti ricordi quella con il navigatore e tutto quanto, gli ho messo la telecamera dietro, l'avevo detto, funziona perfettamente, lo certo ci vede bene. Allora, ciao Cesio Claudio, me l'amo un pezzo. L'ho detto, quello partendo va bene perché intanto c'è lo spazio e poi l'utilizzo. Io l'ho preso per la macchina, ma cosa ne vai? È un televisore. No, è grande perché c'è il monitor grande, da 7 pollici, c'è il navigatore, è bellissimo, tu lo vedi, il navigatore è una cosa spettacolare, proprio, a parte che è aggiornatissimo, ma proprio la definizione è un 3D, è veramente bello, fatto bene, non è una gagata, molte volte ci sono questi navigatori che fanno ridere, e questo invece è molto molto interessante. Poi adesso con Google Maps non c'è bisogno manco di navigatore, no? Sì, ma infatti col cellulare, telefono, scusatemi. Siamo i fiori. I bambini ci arriviti. No, no, però gli altri io, è bello, già, molto bello. C'è il militare Roberto, tanto a me non serviva. L'ho preso per la macchina, ma no, non ne ho mai piazzato, ho ancora la scatola, glielo ho dato. Sono messo nel campo, lì c'è tutto. K, e tu non sei andato a nessuna parte? Io ora sono uscito stamattina, stasera no, stasera mi sono riposato un po'. E vabbè, acceso così, stamattina c'era un po' di propagazione, c'erano tedeschi, c'era spagnoli, insomma c'era un po' di propagazione, ci ho parlato. Sì, la mattina io non ho aperto, mi sono sotto quello fa, stamattina ero impegnatissimo, andato a prendere misure per la barra del cancello, per la prima di andare al cancello, e ero impegnato, e vabbè. sera, 10 minuti quando c'è tempo, se è tempo e voglia, due chiacchiere, se no, pazienza. Vabbè, l'ho mai girato, perché anche io ho messo la mano all'antenna in macchina, mi ha risposto Luca, dopo tanto che ho chiamato, mi ha risposto Luca, e poi mi ha detto che stava anche cucinando, quindi una volta che era prendanita facendo delle commissioni, era attaccata l'antenna, ma non vedeva nessuno. Ha detto, sicuramente a casa sarà facendo qualche trasloco, qualche cosa, e sarebbe niente, se l'avrebbe risposto. No, io già sono a casa, io ero sempre acceso, no, non c'ero. Ero tutta la mattina impegnato, sono andato all'altra casa, pensavo di trovare i muratori, a culturali la legge, ma ce li ho trovati, adesso ci vado lunedì alle 8. Vedo più ragazzosa, ancora c'è notto male. Non è poco roba da collegare da qua. Sono molto indietro già, sono molto indietro, cazzo. Vabbè, l'impianto elettrico è funzionato. No, il collegamento del piano della cucina, gli scarichi, tutte quelle cose, non ho fatto un cazzo sta settimana, proprio se ne sono sbattuti le balle, sono incazzato me. Allora, mio cognato quando ha fatto i lavori in campagna, nella casa, quando l'ha ampliata, un giorno è andato così all'improvviso e li ha trovati tutti quanti seduti sotto l'albero, mangiando e bevendo tranquillamente fuori orario, e loro tutti tranquilli, uno sdraiato, dormito, bulo. E gli ha detto, oh scusate se vi disturbo, cazzo si è alzato tutti quanti dentro, se vi sono bisogno di tutti quanti, e noi stavamo rilassando 5 minuti perché c'era troppo caldo. Ma caldo non ce n'è già, io ho fatto fare proprio queste cose per finire, cioè le temperature sono buone eccetera, ma non è fatto nulla tranquillo. Ti dico, non ho combinato niente, c'è la casa un casino, da schifo. Hanno piazzato la staffa degli sportelloni, hanno fatto cazzate, ma a me non me ne frega niente quelle cose, a me vedevo finire l'interno, perché se non finisco un interno non posso portare niente, capito? Non posso portare niente, quindi sanirà una mossa, adesso lo dici, va, tanto chiamo il geometra e glielo avviso, che non stanno combinando niente, o ci va lui a dare un'occhiata, a controllare ogni tanto, a chi se ne è umbiato in Chivi, e non mi muovo in tutta la lì, e se avessi travagliato. Così vogliono seguirti, se no ne approfittano, se non li segui ne approfittano, e quello è il problema. Bisogna seguire i muratori, se no ci sono la sola, fate i sui bianchi. E c'è un contratto già, a me in giro di un mese dovevano finire tutto, invece mi sono già 2 mesi, ancora non avevo combinato nulla. Io sono accampato qua già, sono a casa piena di scatto, non posso fare niente, i mobili sono già tutti vuoti, non è che posso stare così sino a Gallovini niente, no. Io adesso ho bisogno di un metro che devi dare l'ultimato, per favore, perché io ho bisogno di portarmi via tutta la roba, iniziare a pulire, iniziare a mettere a posto, iniziare a fare le cose, c'è da fare un mare di cose, capito? Deve entrare l'elettricista, piazzarmi lampadari, c'è da fare un sacco di cose, ma un sacco però, e con l'ora e mezza la palla cosa devo fare? Cappa, vabbè, piano piano, se non... aspetta. Claro. Poi? E poi ti devi fare tutti i documenti, cambio di residenza, eccetera, eccetera. Ma uno mi sta dicendo, vabbè, ne abbiamo già parlato, solo quello, cambio di residenza, devo fare la voltura della luce da qua alla... il cambio della... cioè, fare un mare di cose, ma cosa faccio? Non posso fare disdettare niente qua se non prima mi trasloco. Una volta mi sono trasloccato ed è tutto a posto, allora faccio il cambio di tutto, cosa devo fare? No, lo so, dico, poi c'è la burocrazia, oltre alla perdita di tempo e tutto il travaglio di spostarti fisicamente, poi devi andare a perdere tempo per fare la patente, il cambio della patente, carta d'identità, l'anagrafe, eccetera, eccetera, tutto da capo. No, vabbè, non è un problema quello, l'Enel me lo fanno in mattinata, ma l'ho già detto, al momento in cui tu hai già portato via tutto, di giorno però, di giorno. Ci chiami la mattina, subito mando la squadra e te lo faccio collegare, non è un problema, per l'Enel non ho problemi, per l'acqua idem lo sai e per i documenti quelli li posso fare tranquillamente, una volta mi sono trasferito, mi ho fatto lavorare a Corte Santa Maria, capito, sugli uffici dell'ASI, sopra gli uffici del comune, quindi si conoscono tutti. fatto tutto a mio fratello, mi fa tutto lui, no, non è un problema quello. Il problema è che se bruciamo ancora così. Vabbè, già si risolve, dai. Piano piano. Ok, vai, chi c'è? Lasciamo entrare un attimino se c'è qualcuno che vuole entrare, se no riprendi tu Gianni. Sempre più morta questa frequenza, dai, vabbè. Ok, chi c'è? Gianni, riprendi, se no vai tu là. No, forse Gianni si è allontanato un attimo, ho capito Roberto. È un problema di lavori, infatti un po' grazie sto parlando a Massimiliano perché invece spogliatore io non ne ho, quello che c'è si è rotto, l'altro del mio vicino di casa lo stesso ce l'ha da Mariani, quindi devo anche andare a tagliarmi l'erba a settimana, dare una sistemata, perché sono andato a prendere le misure di quella cremagliera per il motore, Roberto. C'è l'erba alta quanto il cancello. Già mi avvicino io quando c'erano 5 minuti di tempo e poi vediamo con quella persona là, ne parliamo perché lo sto cercando anche io che mi deve risolvere delle cose proprio del camper, tornando al camper devo fare gli ultimi collegamenti, ci vuole un relè per alimentare, per non far scaldare l'impianto eccetera eccetera, e l'uso gasetto ne sono andato due volte a cercarlo, doveva venire ieri, non v'è giunto, lo prendiamo per le orecchie, vedi, adesso era mandato a Antonio perché anche lui c'era un appuntamento alle 7:30, ha detto se lo trovi avvisami subito e dirgli che lo sto aspettando, e poi vediamo un po' la roba tua, dai, vediamo da lì come ci sono comunque con le cremare, vediamo vedere come è disposto il cancello, poi se sei vicino non c'è bisogno neanche di passare tratta, tanto col telecomando nel raggio di 30 metri riesce ad andare. Ma un attimino Claudio, dai, che c'è gente, vi devo lasciare, vi saluto. Ehi, già, vai tranquillo, non ti preoccupare. Sì, Robert, a 30 metri, 10 metri dalla, come apro la porta della veranda, cerca cancello, quindi è facilissimo da fare. Ma te l'ho detto io, cosa ti ha detto Danilo? È un casino, cioè se io do in mano quel lavoro a Ruspa è un casino, mi lascia così, a me mi serve iniziare e finire. No, se inizia e finisce, no, da quel punto di vista, il problema fallo come fa, è quello solo il problema, se non ti lascia a piedi, da quel punto di vista no, non è mai successo, almeno, a me non mi è mai capitato, però il problema è fallo come fa. Quello è il problema, che un piccione viaggiatore, Ruspa, è allucinante, grazie, è allucinante, poi ti dà gli appuntamenti e ti brucia, è quello che a me mi fa incazzare. Adesso avvicino, ormai lo conosciamo per quello lì perché è assurdo, dai. Io sto andando a tentarlo, sono andato 3 volte consecutive perché poi si va in questo magazzino dietro vicino a dove va, in questa pizzeria che molte volte la sera lo trovi lì, gli fa lì prendere il telefono, le telefonate eccetera eccetera, e molte volte lo trovi, e sì, ero 3 giorni che lo tentavo nuda, non sono riuscito a ciapparlo. L'altra volta invece, perché era anche uno strumento, un misuratore di campo che c'era già da parecchio lui, che doveva dargli uno sguardo, no, me lo faccio con calma, e con calma è passato un bel tempo, preferisco riportarmelo a casa e me lo tengo in occhi, che è più sicuro. Ok, di nuovo a te qua. Certo, un attimo di bianco, non entra nessuno, lo so, infatti così ho detto Danilo, sai, il problema è farlo iniziare, perché se inizia già finisce, anche perché poi ci sono io lì, prendiamo lì, eccetera, però il problema è farlo iniziare, capito? Tutto qua, e neanche 3 metri la cremaliera, neanche 3 metri, ho preso una misura stamattina, poi già te le faccio vedere se ci passo domani mattina, già ci vediamo magari domani mattina, intanto tu sei in officina che stai lavorando sul campo, qui te lo faccio vedere. È un casino, sì, ma puoi fare vedere anche quella roba che ho parlato con Danilo, quei faretti, quelle cose, insomma ci sono delle cose da fare che, cazzo però, io ti ripeto, non mi fido perché a me tante volte mi ha dato l'appuntamento e poi mi ha bruciato. Quello è normale con lui, dai. Mi ha ciappato di buona. Come l'altro giorno è capitato un lavoro, gli ho buscato un lavoro a una signora, carissima amica, una donna anziana, molto anziana, che vive in campagna. Gli ho detto, guarda signora, io ce n'è uno molto bravo per fare un impianto totale d'antenna, una donna anziana, però non gli ho neanche il numero di telefono, cioè non la metto neanche in contatto perché tanto la brucia. Ed era di lì da Danilo, stava facendo lavoretti su, non so, hai visto dove stanno lavorando su. E c'era, gli ho detto, oh, no, ci vado adesso, ci vai adesso, mi gioco il telefono. Ho chiamato a Francesco, che è una persona seria, quello ve lo porta, e sono andati subito, immediatamente, hanno guidato tutta la roba, prima hanno guardato quello che ci voleva, poi sono andati da Bricco, mi hanno preso tutto, palo, staffe, antenna, cavo e tutto, e l'hanno imbattato, sono stati tutta la sera di lì, pagando e se n'è andato, così lo devi prendere. Se invece ti dice, ci vediamo domani, vediamo, chiamami, boh, hai messo. Infatti, un minuto, chiamo, te lo faccio io, chiamavo, manco rispondeva. Poi rispondeva ed era dormito. E non è la prima volta, è capitato anche a Danilo, che lo stavo aspettando, ha sottelefonato, c'è ancora, che sta ancora a letto, si sicuro che ci tenne a letto, c'è ancora cuccato, che te varia a raio, te varia. E anche l'impianto dell'antenna, per te lo voglio fare centralizzato. Tra me e Nino, capito? Facciamo centralizzato, quindi c'è da fare anche quel lavoro, noi devo riempire la casa di antenne, no? Capito, siccome lui è sopra e io sono sotto, e facciamo l'impianto centralizzato, che si veda bene, fatto bene, però ti ripeto, dare in mano a lui queste cose, sono molto scettico, perché ti brucia, non vi veni. Adesso mi Antonio è andato a cercarlo perché deve fare una cosa importante a lui, ha detto l'ho detto tutta la sera e l'ho detto, perché anche a quello della pizzeria gli ha detto se viene avvisami che sto venendo immediatamente e mi fai chiamare. L'altro giorno ha chiamato a Danilo, gli ha detto mi chiama Roberto, che ti chiama, l'ho chiamato io dopo 10 minuti, infatti Danilo mi ha chiamato e non mi ha rispuso. Ci mette la scheda nel tablet e si vuole aggiungare quel coso poker, come si chiama, poker online, e non ti risponde perché lui non vede la chiamata e si vuole aggiungare.